Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Gli artisti di strada e Creative Commons, domani la festa dei pirati a Roma, siamo Nova Lab 24, Luca Tremolada. Luca dello Iago. E ora le news. Google sbarcherà in televisione. Il motore di ricerca progetta una piattaforma tecnologica innovativa. Utilizzerà come software Android, già sperimentato sui cellulari. In collaborazione con Intel, svilupperà un dispositivo per guardare la televisione attraverso Internet. Logitech fornirà la tastiera e tecnologie per l'accesso remoto ai servizi web. Secondo indiscrezioni, inoltre, è in cantiere anche un accordo con Sony. Non utilizzare il nome Facebook per i siti Internet. È la richiesta avanzata dal social network ai blogger. Negli ultimi mesi si sono moltiplicati gli spazi online che includono la parola Facebook, ma l'ufficio legale della rete sociale online ha inviato un messaggio di avviso. La richiesta è di cambiare il nome del dominio. Passiamo alle scienze. I ricercatori dell'Università di Karlsruhe in Germania hanno progettato un dispositivo per l'invisibilità in tre dimensioni. In un esperimento di laboratorio hanno modificato la velocità e la direzione della luce nell'attraversare la materia. Finora un effetto simile era stato ottenuto con oggetti di due dimensioni. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista internazionale Science. Allora, l'altro, la notizia di oggi è, insomma, un funzionario che raccoglie la pubblicità in Cina per Google avrebbe detto a China Business Daily che Google lunedì annuncerà che, insomma, si ritira, fa baracca e burattini e via, tornava via dalla Cina, porta via tutte le sue attività, o non si sa, qualche cosa, forse solo le attività inerenti al motore di ricerca, e dà quindi una parola fine a due mesi di tira e molla che ci sono stati fino a oggi. E finalmente, anzi, Google se ne va dalla Cina perché, ah, perché sei cattivo. Tra l'altro la Clinton oggi ha commentato la cosa dicendo ciò che fa Google, ciò che riguarda Google e la Cina riguarda Google e Cina, come lo dire, molto da Ponzio Pilato, direi, cioè fatti vostri, io non ci voglio entrare per niente. Comunque, cambiamo argomento, parliamo di musica, parliamo di Busker Label, giusto? Giustissimo. Allora, no, la voce che avete sentito è Giulio De Luise, il fondatore di un nuovo social network. Buongiorno a tutti. E che appunto ci dà una visione diversa della musica, cioè l'idea che li ha spinti a lanciare il social network è stata quella di pensare che c'è la possibilità di donare. La possibilità di donare, così come avviene con la musica da strada. Se pensate, quando ci sono i musicisti strada, appunto i sassofonisti, i chitarristi che suonano in strada, le persone si fermano, ascoltano la musica e donano degli spiccioli. Sì, insomma, la metafora che ha usato Giulio De Luise con me poco prima è il cappello, cioè sì, l'artista di strada con la chitarra che lascia giù il cappello, lasciate i soldi che avete in tasca e insomma vediamo poi che cosa succede. Ma sentiamo la scheda che hai preparato, che fa un po' il punto di questo nuovo strumento. Musicisti di strada, chitarristi, cantautori, sassofonisti si esibiscono all'aperto, nelle strade e nelle piazze. I passanti ascoltano e versano piccole somme di denaro. È un'esperienza trasportata su internet da Busker Label. I musicisti offrono i loro album in anteprima, gratuitamente. Ma il pubblico può ascoltare soltanto una o due tracce. I fan poi possono versare un contributo attraverso internet. L'80% del ricavato arriva ai musicisti. La scommessa è di trovare nuove strade per la remunerazione degli autori. I brani sono condivisi con le licenze Creative Commons. Sono sistemi flessibili per la gestione del copyright e permettono la diffusione legale di musica. Per allargare la sua comunità, Busker Label è anche connesso con Facebook e Twitter. E chi oggi non è connesso con Facebook e Twitter? Senti, com'è nata l'idea? Sei un musicista, non c'entri niente, sei un musicista dilettante, musicista bassista da falò, mi sono sempre definito. Ah, ok. Che poi è difficile. Che è difficile perché non si è amplificato, certo, e quindi proprio sembra, certo, che non suoni. Per cui dicevi, avevi uno strumento bellissimo, dice guardate, io in studio sono bravissimo, mi manca la spina da attaccare, altrimenti. Esattamente. Dall'altro lato tutta un'esperienza tecnologica, ho passato in multinazionale del software, passione per la cultura libera e Creative Commons, alla fine ho detto bisogna fare qualche cosa per far guadagnare gli artisti, ma per mantenere la musica libera. L'idea è proprio quella di trovare uno strumento che permetta di mantenere libera della musica che viene finanziata. Quindi... Ecco, però chi te l'ha fatto fare di lasciare una multinazionale per lanciarti in questo progetto? È una passione, un desiderio, voglia, anche un... È che ti hanno cacciato, perché poi c'è tutto il discorso che noi stiamo portando avanti, che poi di solito succede, cioè capita, soprattutto di questi tempi. No, no, molto... erano in tempi non sospetti, anzi. Okay. No, no, ma meglio poi. Cioè, anche no, è una visione del mondo che mi ha spinto, insomma, a cimentarmi in questo progetto. E, la cosa interessante è che praticamente è una forma di donazione, però una donazione collettiva sfruttando il concetto dell'anteprima. Io ascolto una traccia che è appena uscita, l'album però verrà rilasciato online gratuitamente tra un mese, io se do una piccola sponsorizzazione libera posso già in anteprima ascoltarmi tutto, posso ottenere tracce ad alta qualità, posso diventare un vero e proprio fan riconosciuto. Tra l'altro Luca De Jacopo lo sa benissimo, cioè la donazione è stato un po' il da un certo punto di vista la chimera, dall'altro punto di vista il modello di business di tutto il software libero, cioè di tutto quel produzione di software open source che per finanziarsi da un certo punto di vista chiedeva al donate con PayPal un bottoncino, si schiacciava esatto, con la carta di credito. Questo è uno strumento, chi vuole fare una cosa del genere non ha più problema di dire ok me lo faccio sul mio sito, con pochi click si iscrive su Basket Label e c'è un meccanismo di mecenatismo collettivo diffuso integrato con i social network che permette a qualsiasi artista in poco funzionano tempo. Funzionano questi tipi di iniziative, Luca? Beh, sono dei momenti sperimentali, cioè è una fase iniziale in cui si sta provando a vedere se questa cultura del dono, che è una cultura che esiste nella vita quotidiana, perché quando ci scambiamo un parere con un amico oppure un'idea o semplicemente appunto un libro, ecco, questa è una cultura che esiste, ma è possibile quindi trasferire questo tipo di cultura, questo tipo di atteggiamento su internet? Ecco, alcuni stanno provando a vedere se tutto questo può funzionare, se davvero la cultura del dono e quindi della condivisione, certo, quindi l'idea che esistono dei beni comuni come la musica o come l'arte o come la cultura, ecco, questa idea qui dobbiamo sapere se può passare poi su internet e in che modo poi tutto questo può essere sostenibile. A dicembre ero a Londra, davanti alla National Gallery c'era scritto dona £2 per far sì che questo museo rimanga sempre gratis. Sì, tra l'altro tutto ciò è l'antimateria dell'industria discografica, cioè nel senso che volendo ben vedere, tu sorridi. L'industria discografica era basata su dei supporti fisici, su una materialità, ora siamo tu la metti così, no? Sono... sì, perché i costi delle elaborazioni dei beni materiali oramai si sono ridotti, quindi... Ma qual è il rischio? Cioè, anzi, se rischio possiamo parlarne, cioè il rischio cos'è? Quello che spezzettando un po' il supporto agli artisti poi si crea una scena musicale assolutamente poco massificata, cioè sarà difficile, la domanda è come emerge il talento da un sistema così complicato dove si vive su pochi euro? Innanzitutto aumenta la varietà, ci sta una diversità incredibile culturale e musicale, e quindi c'è la possibilità di scovare cose che magari erano molto interessanti ma prima non emergevano perché non era capitata l'occasione di trovare il produttore giusto del talent scout. Tra l'altro noi siamo in collegamento con Paolo Barberis, che è il fondatore di Dada, non so se ha seguito fino ad ora la conversazione. Buongiorno. Sì, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno. Che idea ti sei fatto, Barberis, di queste nuove forme di mecenatismo dove, insomma, un po' adottate dal software libero, dove sostanzialmente l'artista viene remunerato direttamente dagli utenti, direttamente dai fan, quindi? Sono delle tendenze sicuramente molto interessanti e di allargamento della base, ma non c'è dubbio che per ora il mainstream rimane, come dire, la parte più rilevante, che ha ancora molti nodi da sciogliere. Allora, sì, e anche i social network poi hanno anche delle possibilità interessanti, perché l'idea comunque comune in molti progetti è quella della diffusione della musica. Quello che si è visto è che i social network hanno delle potenzialità per diffondere le idee, per diffondere anche i beni digitali. Non solo, gli artisti ricevono molti servizi interessanti in più che tradizionalmente non avevano, cominciano a conoscere, avere un legame molto più diretto e interessante, sia chi sono, cosa fanno, cosa gli piace, quindi anche organizzare live in base alla geolocalizzazione. Ci sono un sacco di prospettive che possono creare servizi molto interessanti. Sì, anche se giustamente, come diceva prima Barberis, questo non è mainstream, stiamo parlando sempre di qualche cosa che forse è un po' la coda lunga della musica, per cui insomma probabilmente, ma lo chiedo a te, è una musica di nicchia, è una musica molto specializzata, no? Sì, cioè c'è pop, c'è musica pop, ci sono tutti i generi, ci sono tutte le nazioni, ci sono tutti i livelli, dal ragazzino che suona nel garage fino a artisti più importanti. Nova Lab 24. Allora, 16:46, vi ricordo che per avere l'indirizzo del sito del social network di Basker Label potete andare o sul Twitter di Nova Lab 24 o anche su Facebook di Nova Lab 24. Perfetto, e ora sentiamo nella scheda dei vari, insomma, putpourri dei modelli di business per fare soldi con la musica, e poi torniamo con Barberis. Musica, internet, modelli di business. Negli Stati Uniti la radio online Pandora ha guadagnato 50 milioni di dollari. È il primo risultato positivo dopo 10 anni di attività. Dalla Svezia arriva la comunità di Spotify, un immenso archivio musicale sul web. Il pubblico paga una quota mensile o ascolta la pubblicità. I social network sono un potente motore di passaparola, anche in Italia. Durante il Festival di Sanremo le discussioni di tema musicale su Facebook sono aumentate e una settimana dopo gli acquisti di canzoni su internet hanno segnato un incremento del 164% rispetto a un anno prima. Non è mai successo da quando viene monitorato il mercato della musica digitale. Il successo su internet ha influito positivamente sui negozi. Sono aumentate anche le vendite di compact disc. Quindi vediamo che la musica ci dà comunque una possibilità di essere scambiata sui social network. Vediamo che c'è discussione sugli artisti, c'è discussione sui generi musicali, ma c'è anche la possibilità di condividere dei file e di scambiarli. A questo proposito c'è un progetto interessante che ha lanciato Dada e qui ne può parlare Paolo Barberis. Sì, tra l'altro chiunque su Facebook si è trovata la proposta di file musicale, di scambio di file musicali, per cui insomma pochi sanno che cosa c'è dietro. Ce lo spieghi Galei? Certamente, noi sul mondo musica ormai sviluppiamo da 2 anni una piattaforma che devo dire adesso è arrivata abbastanza allo stato dell'arte. Negli Stati Uniti abbiamo un'applicazione che si chiama PlayMe, che è distribuita sia sul mondo web che è fatta diciamo dal nostro ufficio di New York, quindi in collaborazione con l'ufficio di Firenze, e esiste anche su Android e su iPhone, quindi diciamo è già una cosa che funziona molto bene diciamo nel mondo US. In Italia abbiamo iniziato da circa un anno e mezzo sul sito Dadaït. Ad esempio abbiamo fatto il partner diciamo musicale di Sanremo, che appunto ha avuto delle grossissime diciamo fasi di forte traffico, e abbiamo lanciato su Facebook questa applicazione che devo dire sta riscuotendo un ottimo successo e per noi rappresenta un po' l'ideale di far emergere la musica diciamo in accordo con le major, quindi la musica fra virgolette legale nei luoghi appunto della legalità quali quelli della rete. Insomma. Cosa cambia rispetto a prima però con i social network? Quando non c'erano che cosa non si poteva fare? Io vedo la musica diciamo scaricata non necessariamente non da canali ufficiali o comunque scaricata da soli, la vedo molto come un momento in cui sì, è molto simile all'acquisto di un CD e poi me lo ascolto diciamo nelle mie solitudini come amante della musica, e questo va molto bene. Questo è proprio un modello diverso, la musica per il social network, la musica che come oggetto sociale. Ecco, Barberis, però spieghi per cortesia che cosa succede, nel senso che quello che a me è successo è che uno degli amici di Facebook mi ha detto: vuoi accettare queste canzoni? Io devo dire che non l'ho fatto perché sapevo che l'avrei ascoltata in radio. Cos'è che succede su Facebook? È uno scambio gratuito, cioè mi dai 3 canzoni, poi io non ti do indietro niente, no? Com'è? No, come sistema diciamo di invito a installare l'applicazione sull'open platform di Facebook, c'è proprio quello di poter regalare agli amici dei pezzi che possono essere dei crediti o comunque un po' di moneta virtuale per poter scaricare pezzi, ovvero dei pezzi specifici in accordo appunto con le major. Dall'altra parte, una volta ricevuto il regalo, puoi installare tu stesso l'applicazione usarla, che diciamo è per grande parte gratuita e poi ha una parte di utilizzo oltre certi limiti che viene appunto effettuata con una moneta virtuale, un po' come alla maniera diciamo dei giochi di Facebook che stanno funzionando molto bene. Ma qual è il trucco? Il trucco non diciamo è che il trucco ci deve essere, perché altrimenti sembra tutto, no? Ma è quello che se usi, innanzitutto l'applicazione è completa, è come un'applicazione diciamo in cui puoi fare sia lo streaming che non puoi fare da molte altre parti, sia il download. Il trucco è che ne puoi fare un utilizzo basso, e questo lo puoi fare ed è gratuito ed è pagato dalla pubblicità, oppure ne puoi fare un utilizzo premium e quindi a quel punto puoi comprare i crediti. Quindi se l'ascolto da internet tutto bene, se invece la voglio possedere per intenderci, no, li paghi. Sì, non è proprio così, nel senso che tu puoi fare una parte di streaming e una parte di download sicuramente gratuitamente. Oltre certi limiti puoi farlo comprando dei punti oppure ricevendo regali dagli amici. Quindi sicuramente... Ecco, tutto questo poi si può fare appunto all'interno poi di un social network, a partire ecco da un social network dove si fanno anche cose diverse, no? Quindi mentre stai parlando con un amico e stai magari seguendo ecco gli aggiornamenti, puoi anche poi ascoltare della musica e quindi cambia un po' un ambiente diciamo per fare le cose. Questo Io è appunto direi che la musica in questo caso è un tessuto connettivo di socialità, un po' come nella vita reale, e non è più un oggetto da ascoltare da soli nelle cuffiette mentre si studia, lavora o comunque collega le persone. Ma direi che poi, non so, risolve un problema del tipo, ad esempio posso associare musica e testi, che sembra una cosa banale, però tantissimi pezzi, diciamo, inglesi, noi non sappiamo nemmeno esattamente. Sì, questo però in generale internet, no? Sì. Sì, vabbè, in generale internet, se vai sui siti specifici, certo, te lo leggi, però evidentemente... Va bene, Barberis, io ringrazio i nostri ospiti, il tempo è finito, ricordiamo la festa di domani? Sì, la festa dei pirati a Roma. Che non sono i pirati musicali, peraltro, ma sono insomma il Creative Commons e i diritti comuni. Roma, andate. Noi ci sentiamo lunedì 16:30, un saluto a tutti. Nova Lab 24.